GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Servizio dell'acqua a Trieste, perdite del 45% e costo della bolletta tra i più alti in Italia, sostiene la CISL. Investimenti da 13 milioni e organico incrementato, la replica di Acegas APS Amega. Una giornata dedicata alla legalità nel segno di Lorenzo Parelli, giovane studente friulano, vittima nel 2022 di un incidente sul lavoro durante uno stage scolastico. A Udine, il corollario di un percorso educativo che coinvolge 14 istituti scolastici. Livelli relativamente alti di biossido di azoto a Trieste, secondo le misurazioni di Legambiente, che chiede misure ad hoc per ridurre le emissioni legate al traffico. L'Istituto Nautico di Trieste festeggia i suoi primi 270 anni e tra le scuole più antiche d'Italia, domenica apertura straordinaria per una realtà nata su indicazione dell'imperatrice d'Austria, Maria Teresa. Stai zitta, una frase con cui purtroppo ancora molte donne vengono apostrofate, dal libro di Michela Murgia, uno spettacolo teatrale in esclusiva regionale, questa sera al Palamostre di Udine. Ancora una buona giornata da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. L'acqua come bene comune è al centro di un convegno in corso questa mattina a Trieste, in vista anche del 2027, anno in cui scadrà la convenzione tra Acegas APS Amga e il Comune Giuliano. Il punto in questo servizio di apertura. Acqua, bene economico o bene pubblico? È un diritto umano universale che abbiamo il dovere di preservare. Secondo FEMCA CISL, la condizione per farlo è la costituzione di un gestore unico regionale a totale controllo pubblico. E l'occasione si sta presentando proprio ora con l'approssimarsi dei termini di scadenza delle convenzioni sul sistema idrico integrato prevista per il 2027. Nel corso del convegno che si è tenuto a Trieste si è parlato dello stato in cui versa il servizio sul territorio triestino, gestito da Acegas APS Amga, società privata e quotata in borsa e che destina gli utili ai propri azionisti, è stato detto, mentre i restanti 6 gestori regionali che coprono oltre 80% dei comuni hanno un modello di gestione più di natura pubblica che industriale. Marcantonio Papagni, segretario regionale FEMCA CISL. Non è in buono stato, abbiamo avuto alcune perdite rilevanti, e la più importante in Piazza della Repubblica nel 2023, è un segnale di quello che potrebbe succedere. Quali sono secondo voi gli investimenti da fare in questo campo? Soprattutto sulle reti. Gli investimenti vanno sulle reti, e va riportato in house tutto quello che è stato dato fuori e quindi rinnovare il know-how sostanzialmente del settore tecnico. Su circa 48 milioni di metri cubi di acqua prelevati su base annua ne vengono fatturati circa 25 milioni, con perdite che superano il 40% e con investimenti insufficienti per migliorare il servizio. Tra le altre critiche sollevate, il costo della bolletta che figura tra le più alte in Italia, la perdita dei posti di lavoro, 300 negli ultimi 10 anni, e la politica delle esternalizzazioni. Non ci ritroviamo nei dati presentati, replica Acegas APS Amga. Negli ultimi anni gli investimenti annui ammontano a 13 milioni di euro, ai quali si aggiungono i finanziamenti esterni. L'organico è incrementato e la gestione dei terzisti viene fatta nel rispetto delle normative nazionali di sicurezza al lavoro. Inoltre Acegas APS Amga ha voluto ribadire di essere a favore dell'ipotesi di una gestione regionale unitaria, nella quale vogliono apportare le proprie competenze. Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia. Cambiamento climatico, sostenibilità, acqua. Su questi temi verte il primo forum dell'acqua del Nord-Est, promosso alla LEF di San Vito al Tagliamento. L'obiettivo è quello di far emergere strategie capaci di rispondere alle sfide attuali, tra cui quella di assicurare un accesso equo all'acqua e quella di preservare questo bene comune per le generazioni future. Cambiamento climatico, sostenibilità, qualità ed efficienza dei servizi idrici. Se ne è parlato al primo forum dell'acqua del Nord-Est promosso alla LEF di San Vito al Tagliamento. Lorenzo Bardelli è direttore della divisione ambiente ARERA. Il nostro paese è cresciuto molto sul piano della qualità del servizio idrico, della qualità anche della risorsa idrica. Negli ultimi anni ha investito, ha dimostrato di saper investire sempre più, passando da circa 1 miliardo di euro speso nel 2012 a quasi 5 nell'ultimo anno. Questo non ha esaurito ovviamente le necessità, c'è ancora molto da fare. Il cambiamento climatico ci induce a considerare con maggiore attenzione la conservazione delle risorse. La nostra regione fa meglio della media italiana per qualità dell'acqua e dei reflui, interruzioni di servizio e sistemi fognari, però anche qui le perdite idriche sono ancora troppo alte, il 38,2%. Settore che si trova di fronte a grandi sfide, una su tutte il cambiamento climatico e a necessarie trasformazioni. Marco Olivotto è direttore generale LEF. Da questo punto siamo partiti per appunto riuscire a creare un primo forum che vede dai soggetti normatori e soggetti attuatori e i principali player tecnologici d'Italia, ma non solo, a metterli tutti quanti assieme a un tavolo per capire come ognuno di essi e poi messi tutti quanti insieme appunto in filiera possono essere un elemento trainante verso una nuova competitività supportata sicuramente dalle tecnologie, sicuramente anche però da processi e organizzazione e da una creazione di nuove competenze. Da San Vito al Tagliamento è stata anche sottolineata l'urgenza di allacciamento all'acquedotto per mettere in sicurezza un territorio che ha vissuto serie difficoltà durante le stagioni siccitose. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora occupiamoci di inquinamento. Livelli relativamente alti di biossido di azoto a Trieste, secondo le misurazioni di Legambiente, che chiede misure per ridurre le emissioni legate al traffico. L'associazione ambientalista ha effettuato una campagna di monitoraggio in diverse vie della città lo scorso mese di marzo. Per la prima volta Legambiente Trieste mette a punto uno studio realizzato con l'aiuto di diversi cittadini volontari che attesta il livello stimato di biossido di azoto attraverso strumenti molto economici in 19 punti della città, che sono molto di più dei 3 previsti dalla legge che ARPA regolarmente verifica puntualmente in città appunto. E il livello di biossido di azoto supera il livello annuale previsto dalla legge, che è 40 microgrammi per metro cubo. Allora chiediamo al referente per la scienza realizzata dai cittadini, diciamo la Citizen Science, referente di Legambiente Trieste, il professor Mario Mearelli, perché è importante questo studio? È importante questo studio perché al di fuori delle informazioni di ARPA, delle centraline di ARPA, si ha una fotografia della reale situazione della concentrazione di biossido d'azoto all'interno della città in vie che normalmente sono interessate da alti volumi di traffico. Ecco, quindi è interessante mettere a confronto i risultati per capire che effettivamente l'impatto del traffico c'è, vale come riferimento il dato di Sgonico, dove sono stati misurati addirittura 3 microgrammi per metro cubo, oppure all'opposto via del Mulino a Vento, che raggiunge 80 microgrammi per metro cubo. Ricordiamo che il biossido di azoto è una sostanza nociva e che Legambiente ovviamente non intende sostituirsi ad ARPA, ma vuole collaborare con l'agenzia mettendo a disposizione le proprie risorse. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È dedicata a Lorenzo Parelli, il giovane studente friulano vittima nel 2022 di un incidente sul lavoro durante uno stage scolastico, la 17ª edizione della Giornata della Legalità, che si sta svolgendo a Udine e alla quale ha partecipato anche la sorella. Un percorso formativo che ha coinvolto oltre 1 migliaio di studenti per l'intero anno scolastico, nell'ambito di un progetto promosso da una rete di istituti superiori della provincia di Udine. Una giornata dedicata alla legalità a teatro nell'ambito del Festival Vicino Lontano, ma soprattutto un progetto educativo che va avanti da 17 anni coinvolgendo 14 scuole e diverse istituzioni. Si lavora sui temi della cittadinanza attiva, etica e responsabilità. In classe, certo, anche se le esperienze emotivamente più forti sono fuori dalle quattro mura di una scuola. Liliana Mauro, co-coordinatrice della rete Il Piacere della Legalità. Ragazzi che entrano in carcere capiscono cosa vuol dire uscire dalle regole. I ragazzi che vanno a fare il volontariato nella mensa Caritas capiscono cosa vuol dire la povertà. I ragazzi che vanno nei terreni confiscati capiscono cosa vuol dire non avere la libertà di essere cittadini. L'evento è dedicato a Lorenzo Parelli, vittima di un incidente sul lavoro all'ultimo giorno di stage in azienda. Con la carta di Lorenzo, la famiglia ha saputo trasformare il dolore in impegno civile. Valentina Parelli, sorella di Lorenzo. Con iniziative come quella di oggi si spera di trasmetterla ai ragazzi come una cosa importante, come qualcosa di cui parlare in classe, che possano portare in tirocinio, che possano esporre e parlarne con il loro tutor e da lì creare il percorso di tirocinio corretto, tutelando la sicurezza ovviamente dello studente. Marco Omizzolo, sociologo ed esperto di agromafie e caporalato. Io ho assistito a decine di casi di persone che hanno subito gravi incidenti sul lavoro, ma anche a come sono stati raccontati questi incidenti, dove la colpa viene sempre data a chi subisce quell'incidente, a volte anche mortale. Noi questa narrazione e questa analisi la dobbiamo ribaltare. Quando le scuole esterne incontrano la scuola interna del carcere, si va via con le lacrime di commozione, racconta il rapper DJ Tubet. Sono storie di vita umana, non è estranea alla nostra vicissitudine di Udine, alla nostra attitudine, crea un po' di inquietudine, ma si sa, porta un po' di amore, d'affetto, di rispetto, la società che dà la sua solidarietà è la prova della forza e dell'integrità di tutto il resto del comparto, perché si sa, è metro di una nazione come viene trattata la gente in prigione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 20,5 gradi, vento a 30 km orari da est-nord-est Bora. A Gorizia 22,5 gradi, Pordenone 22, a Udine 21,5, a Tolmezzo 20, a Tarvisio e Forni di Sopra 16 gradi, a Sappada 14, a Piancavallo 12,5, sul monte Zoncolan 9 gradi, sul monte Lussari 6,5 gradi, a Grado 22, a Lignano 21. Ma sentiamo le previsioni per il weekend e per la prossima settimana di Livio Stefanuto dell'ARPA regionale. Il tempo sarà determinato ancora dalla presenza di un vasto anticiclone, almeno per la giornata di sabato, che manterrà tempo ancora stabile sulla nostra regione, con cielo in genere poco nuvoloso, forse soltanto più variabile sulle montagne al confine con il Veneto nel pomeriggio. Sulla costa soffrirà ancora un po' di borino al mattino e poi venti di freddo nel pomeriggio, temperature massime in pianura attorno ai 26-27 gradi nel corso delle prime ore del pomeriggio. Domenica inizialmente c'era poco nuvoloso sulla regione con venti di freddo sulla costa, ma già in mattinata aumento della nuvolosità in montagna e nel pomeriggio sui monti saranno possibili, quasi probabili, delle piogge sparse, forse anche qualche rovescio temporalesco. A metà della prossima settimana arriverà un fronte più deciso, preceduto lunedì martedì da corrente a sud-ovest più umide, quindi da lunedì comincia la fase di nuovo di alcune giornate di piogge, ma le piogge più consistenti si avranno a metà settimana. Ieri, siamo alla politica, doppia uscita pubblica in regione per la lista Libertà che si presenta alle europee. Incontri a Udine e a Trieste per una realtà che ha il primo punto del programma, la non belligeranza dell'Italia. Meno Europa, più Italia è lo slogan della lista Libertà che mette assieme 19 movimenti politici tutti rappresentati all'interno del simbolo. Molto diversificate le linee politiche di partenza in una realtà che raggruppa movimenti regionalisti, movimenti autonomisti e partiti ultracattolici. Parole chiave: pace, sovranità, equità, federalismo. In lista a livello nazionale personaggi famosi come Sergio De Caprio, il capitano ultimo dei carabinieri che arrestò Totò Riina, o come il leader Catino De Luca, il cui nome campeggia nel simbolo stesso. I candidati regionali sono espressione di Insieme Liberi e sono Giorgia Tripoli e Ugo Rossi, carriere politiche nate sul fronte Novax e poi autori di exploit importanti, rispettivamente come candidata alla presidenza della regione lo scorso anno e come candidato a sindaco di Trieste 3 anni fa. La cosa più importante è la libertà, è ciò che ci unisce tutti questi movimenti e che hanno sfumature diverse. Abbiamo un manifesto comune. Uno dei punti più importanti per noi è sicuramente quello della libertà di scelta, il no al trattato pandemico, il contrasto a tutte le politiche sanitarie che vuole portare avanti l'OMS, che non si sta fermando nel suo piano di controllo dell'umanità e, diciamo, imposizione di protocolli e misure sanitarie dall'alto. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà Matteo Tonon, presidente del cluster Legno Arredo del Friuli Venezia Giulia, a guidare il cluster nazionale. Eletto a votazione unanime a Roma, nella sede di Confartigianato, Tonon sarà affiancato da un consiglio che si propone nei prossimi mesi di aumentare la sua composizione, coinvolgendo ulteriormente il sistema moda e tessile italiano, pilastro e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Già presidente di Confindustria Udine, Tonon oggi è presidente del cluster Legno Arredo Friuli Venezia Giulia e consigliere di Asso Arredo in Feder Legno Arredo. Favorire il dialogo tra i principali pilastri del Made in Italy per rafforzare le strategie di innovazione, crescita e sviluppo del manifatturiero italiano sarà tra le priorità su cui lavoreremo immediatamente, ha detto. Questo cluster mette insieme le diverse anime produttive e accademiche del territorio italiano in tutte le sue latitudini e specificità, unite da uno spirito di dialogo e coesione orientato alla crescita e al rafforzamento del Made in Italy, ha concluso. Tra tradizione e innovazione, l'Istituto Nautico di Trieste si appresta a festeggiare il 270° anniversario della sua fondazione. Ce ne siamo occupati a Buongiorno Regione, la nostra trasmissione del mattino. Da oltre due secoli chi vuole imparare ad andare per mare passa da qui, dall'Istituto Nautico di Trieste, scuola più antica della città e tra le più antiche d'Italia, simbolo della vocazione marittima e commerciale di Trieste. Il Nautico quest'anno compie 270 anni e si prepara a festeggiarli domenica. Il preside Francesco Fazzari. Ci sono 29 appuntamenti in questa scuola tra musici, artisti, conferenzieri. La scuola sarà aperta a tutti, saranno i ragazzi e le ragazze di questa scuola a guidare la cittadinanza e a far vedere all'interno una delle scuole sicuramente più belle della città. Tra le particolarità del Nautico c'è la biblioteca appena restaurata, 14.000 volumi, molti specifici di costruzione navale, per un valore assicurato di oltre 2 milioni di euro. Ma il vero patrimonio della scuola sono gli studenti. Dopo un biennio di lezioni comuni possono scegliere se diventare capitani di navi, ma anche macchinisti, costruttori, piloti ed esperti di logistica. Io sono in quinta, capitani, quindi studio per in futuro imbarcarmi a bordo di navi. Studio aeronautica. Facendo questo indirizzo tutti pensano che si possa diventare solo pilota, ma ci sono altri sbocchi lavorativi. Io penso di viaggiare a bordo delle navi proprio perché è stata la mia prima scelta quando sono arrivato a questa scuola. Il senso della partenza penso che ci sia, almeno io lo sento e vedo che tanti di quinta ce l'hanno. In una scuola che per tradizione è considerata maschile, le studentesse sono circa il 10%, ma ci sono novità. La vicepreside Barbara Bernato. Con le iscrizioni di quest'anno per l'anno scolastico che entrerà, la percentuale è aumentata fino al 25%, ne siamo particolarmente orgogliosi, perché insomma anche le ragazze capiscono che questo è un mestiere, questi mestieri non hanno genere. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora la più sovversiva, scrive Michela Murgia nel libro Stai zitta, un grido d'allarme su come ancora oggi si tenta di zittire le donne nella società e nei media. Stai zitta è in arrivo in esclusiva regionale alle 20.30 al Palamostre di Udine per la stagione Teatro Contatto, in collaborazione con Vicino Lontano. Protagoniste in scena Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque. Per la messa in scena di Stai zitta hanno lavorato con Marta Dallavia, regista vincitrice nel 2019 del premio Melato per il teatro. Lo spettacolo affronta con ironia e intelligenza il problema della discriminazione di genere, che molto spesso passa attraverso il linguaggio. Ce l'ha illustrato una delle protagoniste, Antonella Questa. Stai zitta è tratto dal saggio omonimo del libro di Michela Murgia, Le nove frasi che non vogliamo più sentirci dire. È un lavoro che mi vede in scena assieme a Valentina Melis e a Teresa Cinque e siamo state guidate dalla sapiente regia di Marta Dallavia. È un saggio per cui dovevamo proprio fare una trasposizione teatrale. Vedrete insomma in scena l'ancella del patriarcato, che tra l'altro è il mio personaggio incarnato in questa Letizia che vuole farsi eleggere a presidente di regione. Avremo una donna brava e pure mamma, che questa è una delle frasi che non vorremmo più sentirci dire, è interpretata da Valentina Melis, e Teresa Cinque invece ha il ruolo della sociolinguista, che appunto è una femminista che ci guida un pochino attraverso questo viaggio. È uno spettacolo che racconta l'incontro di queste tre personalità. Quali sono alcune delle frasi che le donne non vogliono più sentirsi dire e in quali contesti? Stai zitta è uno dei primi, il fatto di zittire una donna, come hai detto che ti chiami, questo modo di presentare una donna solo con il nome proprio e mai usando il cognome o ancora meglio il titolo. Altre frasi, che brava eppure mamma, quindi la mammizzazione delle donne, sempre sottolineare che il loro ruolo fondamentalmente è questo. Poi il catcalling, cioè questo modo di apostrofare le donne per strada. Noi un pochino abbiamo messo insieme questi vari aspetti e teatralmente li abbiamo resi, il pubblico si diverte moltissimo, si emoziona anche, e alla fine quello che posso dire risulta, perché ormai lo stiamo portando in giro dal luglio scorso, quello che stiamo vedendo è uno spettacolo necessario, proprio lo vediamo dalla risposta del pubblico che manda ai teatri anche i più grossi subito sold out e poi insomma ci accoglie e ci ringrazia alla fine con calorosissimi applausi. E ora lo sport con il basket, terzo match nella serie dei quarti di finale playoff per la Pallacanestro Trieste, che reduce da due vittorie al Palarubini, alle 20:30 affronta Torino. Occasione importante per il percorso verso la semifinale. Scende sul parquet di casa anche Gesteco Cividale, che in playoff alle 20:30 affronta Cantù sotto di 2-0. Oltre 2.500 i tifosi pronti a sostenere una Gesteco in svantaggio sul piano numerico. Manca all'appello l'americano Lamb, sul quale pende la squalifica di due turni. A Pudine gioca invece domani a Cremona. Con il basket è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Tommaso Minoni e Mauro Cumin. Da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di un buon pomeriggio. Il prossimo giornale radio, come di consueto, alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.